quello riflesso nel vetro non ci assomiglio. Sono uno specchio, un mondo parallelo, dove di ogni aspetto osservo il vero. Il generale che mi si affianca con l'aria di minaccia, carriera senza macchia. In realtà ha rubato le stelle dal cielo, le ha cucite sulle divise di ogni suo guerriero. Lucia invece è intonata, ma sa tenere il tempo quanto un disco che salta. Lei è stupenda ed è proprio aggraziata. Peccato che per quattro giudici ha una velina mancata. Poi c'è il vecchio con la panda che non supera i 40 in città e nelle strade di campagna. Passata una vita il tempo si fa lì. Come sta andamento che tiene, gazzella ferita tra le iene. Ogni nuovo momento se lo vuol godere, e chi sorpassa alla fine è un'istruttrice di guida al femminile. Pregiudizi tra righe contigue. Generale, dietro la collina, Ezio Greggio fotte, Lucia pecorina. Lucia si mette a nudo per avere un futuro. Ironia della vita se lo prende nel culo. Suo padre, un uomo su 60 e 40 sulla panda, dice gli occhi di sua mamma. Generale, in generale, fa guerra fin di bene, ma generato male. Sua figlia Ida non ha seguito la sua strada, eppure insegna guida. Ai 100 lungo la via uccide il padre di Lucia, che fa la modella ma la sua agenzia le hanno detto basta, per noi sei troppo grassa. Ed ora Lucia cerca un modo per far cassa e si prostituisce al miglior offerente. E lei, generale, è il suo miglior cliente. La mia testa fa bam, la mia testa fa bam, la mia testa fa comico.